Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine e dalle ore 20 alle 21:30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, teniamo in sottofondo questo brano che è la sigla di apertura di questo programma Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine fino alle ore 21:30. Anche oggi è 12 marzo 2026. E tra l'altro, vabbè, ogni tanto diciamo anche il titolo del brano della sigla, ovvero Retribution, di una band statunitense che è esistita inizi anni 2000, i Behind Enemy Lines. Ricordo che comunque il programma è condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band italiana. Loro sono della zona di Forlì, sono Le Tormenta, dall'album uscito nel 2025, l'anno scorso, Le Ombre Più Buie. Ci ascoltiamo un paio di brani e tra l'altro anche ho percepito, comunque sono venuto a conoscenza, che questa uscita discografica era anche l'ultima per questa band, perché a quanto pare hanno preso un periodo così di ferma. E comunque noi ci ascoltiamo Le Tormenta. Ascoltami, la vita. Amico mio, sai cos'è il dolore? Piangi e nessuno ascolta le tue lacrime. Quando il corpo non sente più le ferite, ma il freddo sì, senza il calore di un abbraccio. Il dolore, quando per tutti il tuo popolo non è altro che un'immagine. Il dolore, un coltello ti entra nella schiena e qualcuno ride. Il dolore che non senti più è parte di te, cresciuto con te. È il dolore che nessun altro può sentire. Abita il cuore e ci resta per sempre. E a chi ti chiede come va, tu sorridi e dici sto bene. Solo allora senti il dolore. Abbiamo ciao a tutte e tutti, scusate, ci sono delle così problematiche qua col microfono, ma le abbiamo superate. E abbiamo letto una poesia che è arrivata alle, che l'ho letta dall'Osservatorio Repressione, è arrivata alle compagne e compagni delle case matte dell'Aquila dal prigioniero palestinese Ananya Esh, che è detenuto tuttora nel carcere di Melfi, a diverse centinaia di chilometri, e condannato a 5 anni e 6 mesi dopo il processo di primo grado che si è svolto all'Aquila, terminato circa 2 mesi fa, perché oggi giustamente siamo il 12 marzo ed era il 16 gennaio. Allora, questa sera, questa puntata di Zarnese Magnetics, abbiamo parlato appunto, abbiamo anche scelto questa poesia, ci sembrava appropriata, oltre che per un pensiero insomma da dedicare a Nan, anche perché la solitudine di cui lui parla, o meglio il dolore che deriva da questa solitudine, da questo isolamento, non solo appunto, non solo materiale, anche metaforico, ma anche materiale, è un po' una indicazione che ci porta anche agli argomenti che abbiamo scelto di trattare stasera, così abbiamo scelto appunto queste due interventi che faremo. Il primo, come da nostra così anticipazione, è Non si parte, ovvero un intervento sull'antimilitarismo e sulle lotte popolari contro la guerra. L'altro argomento di stasera per Zarnese Magnetics sarà invece un intervento a partire da intorno a, insomma, a questa traduzione, il manifesto dei disoccupati felici, un brevissimo opuscoletto della Nautilus, e andremo a vedere insomma sul discorso ancora del rifiuto del lavoro. Ecco, allora dicevamo del rifiuto del lavoro, no? La scorsa puntata abbiamo così fatto una rinfresca della memoria Fuori la grana, ove ammazziamo, no? Questo libro che è stato tradotto, no, dal libro francese di Alessi dell'Umbria, su questo gruppo così ribelle degli anni 80, Os Cangaceiros, che loro appunto, dove loro andavano a mettere nelle pratiche, insomma, nelle pratiche stesse mettevano in opera questo rifiuto del lavoro e il loro astensionismo, il loro senso di appunto di ribellione verso il loro nel contesto di quegli anni. E d'altra parte abbiamo parlato anche di un altro lavoro così di ricerca risalente super giù quegli anni, ovvero la sussistenza, dove appunto invece si vanno a riscoprire tutta una serie di pratiche riconducibili alla cura, no? Dove anche lì è messa in pratica il rifiuto del lavoro, salariato, ovviamente anche di quello di autosfruttamento, ancor più ovviamente, e che sono a fondamento queste pratiche che siano di cura, che siano extralegali, che siano di lotta e di attacco, no? Sono il fondamento dell'autonomia, di quello che è la dignità e della libertà, no? Degli individui. Praticamente e in pratica, no? Nella pratica dimostrano quello che sarebbe ed è opposto al contesto nostro invece, che è fatto di sfruttamento e di profitto. Allora, a partire da questo contesto che si diffonde, capillarmente nel tempo e nello spazio, e ci ingabbia, no? in queste che sono le vite in qualche maniera che sono piegate all'organizzazione che il capitalismo ha previsto per il lavoro. Vediamo appunto la condizione di disoccupato felice in questo intervento, che risale, insomma, sono, dicevo prima, Manifesto dei disoccupati felici, traduzione appunto dal francese di questi tre interventi, a cura di, firmato da appunto, Chômeurs Heureux, ovvero disoccupati felici. Piccola parentesi etimologica: Chômeur, il mio francese fa ridere, ma comunque chômeur è il verbo che si usa in francese per essere disoccupati, risale tramite il latino medievale, poi al greco appunto kauma, che è calura, e si riferisce al fatto che inizialmente i braccianti, i lavoratori delle campagne, dovevano forzatamente fermarsi appunto in corrispondenza con la calura appunto estiva, no? I mesi più che impediscono, insomma, l'attività dei lavori in campagna, e quindi è rimasto questo si è conservata questa origine nell'etimo francese, ma naturalmente poi con lo spostamento, con l'urbanizzazione e quindi con l'impiego della manodopera nell'industria, tutto questo ha portato a delle a dei riposi forzati, ma non più collegati con le stagioni, naturalmente, ma alle esigenze dei della direzione delle fabbriche, a sua volta dei luoghi dove appunto i capitalisti si riuniscono o anche no, insomma, per organizzare insomma il loro profitto e quindi il tipo di vita che loro fanno senza dover lavorare, senza dover faticare, diciamo, e invece la maggior parte degli sfruttati, appunto, siamo nell'epoca dell'industrializzazione di massa, no? Mi riferisco a quel periodo che non c'è più, e quindi sì, è così. E inizia questo intervento del manifesto dei disoccupati felici, dicevo, risale al 1996, alla fine degli anni 90, dicendo appunto questo mito, questa così idea di piena occupazione dei lavoratori ormai comincia a scricchiolare, ed era la fine degli anni 90, sta diventando sempre più una chimera. Negli altri interventi che sono poi si succedono in questo opuscoletto di cui vi parliamo stasera, che sono di 10 anni in 10 anni, no? 2006-2018, questa che era una così un, ma erano discorsi che si facevano comunque con quel discorso dei no global, diciamo, dei primi anni 2000, soprattutto in Italia c'era tutta una vulgata, ecco, del precariato, no? Soprattutto in certi ambiti, oggi un po' in disgrazia, no? Ambiti disobbedienti, eccetera. C'era tutto questa tiritera del precariato, del cognitariato avanti, no? E in qualche maniera questo contributo praticamente era, a quel tempo era, cioè in quegli anni erano, ecco, non dico in sintonia, ma comunque era venuto fuori in quel contesto là. Da questa parte delle Alpi adesso come adesso penso che non se li fila più nessuno, hanno anche una certa età questi personaggi. E invece non ho detto appunto che gli autori di questo manifesto sono sì provenienti, cioè è scritto in, cioè se devo dire la verità devo controllare, ma comunque sì, sono scritti in originale in francese, ma sono gli autori si erano stabiliti già da tempo in Germania, Berlino in particolare, quindi quel contesto là. Che appunto, finendo il ragionamento, col passare degli anni diventa questa illusione della piena occupazione, non solo una loro intuizione, ma una roba, è un, diciamo, un'idea diffusa, è un ormai una verità, possiamo dire, che non ci crede più nessuno, vuol dire, ecco. È pari passo col discorso anche del pensionamento, no? del punto di arrivo come pensione, cioè che uno che lavora poi pensa di andare in pensione, ormai questa roba qua è finita, no? Oggi 2026, sono passati tanti anni, no? Sono decenni da questo intervento. Comunque, siccome sono già 10 minuti, mi pare che sto parlando, se dai super giù farei anche una pausa. Per sentirsi più vicini al nostro clamore, al nostro clamore, al nostro clamore. La specie sopravvive grazie ai colpi sul ferro, sul legno e sul mattone. Ferro, legno, mattone! Io no, tu no, noi no! Io no, tu no, noi no! Guardate, sono qui e non c'è tempo per il dolore, e resistiamo con passione! Fabbricare, fabbricare, fabbricare, preferisco il rumore del mare che dice fabbricare, fare, disfare è tutto un lavorare, ecco quello che so fare. Una famosa, celebre poesia del poeta italiano Dino Campana, 1916, e, perché l'ho tirata fuori, perché appunto c'è questa spaccatura, no? Tra quello che è la parola lavoro e quello che evoca, e invece quello che è il lavorio, no? Il lavorio di uno che non ha pace e che è un lavorio sfibrante ma è necessario, cioè nel senso non dà scampo, e che comunque evoca la fatica del vivere, ma non è una fatica, non è una, neanche una commiserazione, non c'è commiserazione in questi versi, c'è accettazione del proprio destino, ecco quello che so fare, no? E, è così, del proprio destino e anche della propria solitudine. Dicevamo prima che il dolore di cui parla Anan nella poesia, che la situazione poi comunque sia del prigioniero palestinese a maggior ragione, è vero anche che però è una condizione che impera in questa fase, in questi anni, e che un senso di oppressione, di miseria che si rivelerebbe paradossalmente anche se per così per assurdo non fosse più obbligatorio lavorare, no? Se domani mattina magicamente arrivassero dei provvedimenti che non obbligano più a lavorare, per cui si può fare quello che si vuole, si può stare a casa, stare tranquilli o andare, uscire ancora meglio, insomma, tutto il giorno senza impegni così miserevoli, anche in quell'ipotesi assurda, per assurdo, comunque ci rimarrebbe uno sfondo di sì, di abbattimento, così di quasi un incubo, no? Sarebbe per molti, per la maggior parte, perché l'organizzazione del lavoro oggi implica quasi, insomma, per tutti il fatto di dover ridurre i propri legami, le proprie relazioni al contesto lavorativo, insomma, bene o male si frequentano le persone a fianco di cui si lavora, se si ha la fortuna, insomma, di trovare persone anche valide, è un colpo insomma di fortuna, ma non è detto, spesso insomma si è in un contesto che dove non si vorrebbe stare, ma al di là di quello c'è la disciplina, no? C'è tutto, c'è l'obbligo, c'è la schiavitù, ma ecco, Quindi c'è come una cappa di moralismo, no? Nell'essere disoccupati, dicono questi lavoratori, questi disoccupati felici, che impedisce, no, di vedere fuori da questo ingranaggio, da questa ruota, cosa c'è, no? Ma appunto, se ci fermiamo un attimo, pensiamo, facciamo un'analisi, cos'è? Cosa sarebbe questa utilità sociale, no, del lavoro? Cioè, se uno dice, ma tu non lavori, renditi utile, no, alla società, ma dove, quando mai, no, ci sono proprio dei lavori che sono utili? Facciamo un esame di coscienza. Sempre più, insomma, spadroneggiano i servizi, il settore dei servizi, oggi come oggi. I servizi, bene o male, che vanno a parare nella sorveglianza, nel controllo, e anche quando non sembra, e anche quando sembra e quando è evidente si fa finta di non capire, di non vedere, per tirare avanti, per non pensare, per accettare, no? E stavolta non è accettare il proprio destino come nel caso di Dino Campana, questo qua è accettare per mettere sotto la testa sotto la sabbia, ma comunque quindi non c'è utilità sociale, non c'è integrazione. Bisogna cercare in qualche maniera, sì, questa integrazione, no? Però bisogna pensarla, da dove tirarla fuori. Vado a leggervi così adesso un 10 righe del Manifesto dei disoccupati felici. Disoccupazione è una parolaccia, un'idea negativa, l'altra faccia della medaglia del lavoro. Un disoccupato è semplicemente un lavoratore senza lavoro, il che non dice nulla della persona come poeta, come vagabondo, come ricercatore, come colui che respira. In pubblico si può parlare solo della carenza di lavoro, soltanto in privato, lontano da giornalisti, sociologi e altri fiutatori di merda, ci permettiamo di dire quello che abbiamo nel cuore. Mi hanno appena licenziato, fantastico, finalmente potrò fare festa tutte le sere, mangiare qualcosa che non sia cotto al microonde, coccolarmi senza limiti. Alla domanda se dobbiamo abolire questa separazione tra virtù private e vizi pubblici, ci viene detto che non è il momento, che si trasformerebbe in una provocazione, che farebbe il gioco degli zoticoni. 20 anni fa i lavoratori potevano ancora mettere in discussione il loro lavoro e il lavoro. Oggi, 1996, devono dire che sono felici per il solo fatto di non essere disoccupati, e i disoccupati devono dire che sono infelici per il solo fatto di non avere un lavoro. Il disoccupato felice se la ride di un simile ricatto. Ecco, quindi tutto questo moralismo crea un ambiente che è sfavorevole, no? Dicevo prima, appunto, tanti lavori sono anche proprio loschi, ecco, non si sa dove si va a parare. E tuttavia, appunto, sia il fatto che il lavoro sia utile, sia che il fatto che per la comunità, intendo, no? sia fonte di soddisfazione, queste cose qua cominciano a diventare, no, in questo manifesto, evidentemente una illusione, una chimera, no? Oggi questa cosa qua è abbastanza condivisa, no? Soprattutto nel paese da cui stivale da cui parliamo, dove si è risaputo, insomma, che le condizioni anche dei salari, per non dire condizioni di lavoro, insomma, generali, normative, tutto, sono inqualificabili, e quindi da qui dobbiamo fare, diciamo, ancora un, un passo indietro, guardare il problema, e ci sono cose, certe cose che ormai sono, posso dire, naturalizzate, no? Quindi, cioè, il discorso della frustrazione è legato al fatto, soprattutto, che anche facendo lavori di merda non si arriva a avere, diciamo, una vita, posso dire, anche separata, però che abbia una sua, così, una sua dignità, cioè di vivere bene, no? Il discorso, appunto, che vado ancora a leggere un brano: se il disoccupato è frustrato non è perché non ha un lavoro, ma perché non ha soldi. Quindi non dobbiamo più dire cercatore di lavoro, ma cercatore di soldi. Non più cerca attivamente lavoro, ma cerca attivamente denaro. Le cose saranno più chiare. Come vedremo, i disoccupati felici cercano di colmare questa lacuna ricercando risorse oscure. Allora, un altro punto è questo qua. Se noi guardiamo la questione, appunto, del lavoro distaccato, diciamo, in maniera distaccata, emerge il fatto che il lavoro non è l'unico valore del sociale, insomma. Esistono anche altre realtà oltre il lavoro. Mi spiego, no? Ad esempio, nelle società non occidentali, diciamo, non cosiddette sviluppate, vediamo che, ad esempio, il lavoro dell'uomo bianco è ritenuto disprezzabile, anche perché queste comunità, queste realtà dei paesi cosiddetti sottosviluppati apprezzano, cioè rilevano il fatto che il lavoro dei bianchi non finisce mai, cioè non finisce mai, devono sempre lavorare i bianchi. Invece ci sono, dice il manifesto, degli artigiani somali che dilapidano i guadagni della loro attività tutti insieme in una grande festa annuale. I disoccupati felici hanno molto da imparare e disimparare dall'Africa e da altre culture non occidentali. Non si tratta ovviamente di scimmiottare queste pratiche ancestrali, come facevano gli hippies qualche tempo fa, ma piuttosto, senza voler copiare l'originale, di trovarvi una rinfrescante fonte di ispirazione, un po' come Picasso e i dadaisti si ispirarono ai loro tempi e all'arte negra. Citeremo qui solo un esempio. Alcuni anni fa i sociologi si sono interessati allo stile di vita degli abitanti di Grand Yoff, uno dei sobborghi più poveri di Dakar. Ne hanno riferito che il reddito di una famiglia media di 12 persone era 7 volte superiore alle risorse ufficiali. Non che queste persone abbiano trovato la formula miracolosa per moltiplicare le banconote, ma sanno come aumentare l'efficacia delle finanze precarie organizzandone la circolazione intensiva. È impossibile vivere in Africa senza appartenere a un gruppo etnico, a un clan, a una famiglia allargata, a una cerchia di amici. All'interno di ciascuna di queste reti il denaro circola metodicamente attraverso un sistema preciso, elaborato e tassativo di doni, donazioni, prestiti, rimborsi, investimenti, diritti sulle varie tontine. Questo discorso delle tontine, cioè una specie di contributo regolare a un fondo che ogni donatore può utilizzare a turno, era evocato, anche se avete presente, anche in Fuori la grana ovvi ammazziamo, no? E anche Os Cangaceiros avevano questo sistema fra di loro, e anche, cioè, adesso a posteriori alla presentazione, insomma, avendo ascoltato la presentazione, loro si erano organizzati proprio per con le loro truffe, insomma, con le loro attività extralegali, per provvedere prima alle loro necessità, poi alle necessità dei prigionieri in lotta, no? Ed eventualmente tenevano anche una cassa, insomma, per ogni altro, per i familiari, eccetera, insomma, no? E questo qua era anche un sistema, insomma, che si ispirava alle tontine, a queste collette, insomma a questi fondi, queste casse che hanno le comunità, appunto. Quindi il discorso era, per concludere un po' questa chiacchierata così sul manifesto dei disoccupati felici, era è vero, sì, no, nel senso, va bene il discorso sull'integrazione, no? chiaro che disoccupato felice non vuol dire me ne sto a casa e mi faccio i cazzi miei, no, vivo alle spalle di, no, il discorso è che è l'organizzazione del lavoro che ci ha ridotti così individualisti, che ci facciamo le scarpe uno con l'altro, che facciamo concorrenza, no, vediamo chi è più veloce, anche, no, banalmente, chi fa meglio il lavoro, chi è un bravo operaio, eccetera eccetera. Questa miseria è da buttare completamente nella discarica. La realtà, appunto, per ripartire, insomma, un punto da cui ripartire, questo qua, insomma, dell'integrarsi, sì, con il proprio sodalizio, no? con questo sistema di mutuo aiuto delle tontine e contemporaneamente anche con la critica, insomma, al militantismo, poi, perché non abbiamo detto, c'è anche questo, insomma, alle organizzazioni che cercano di rimediare, no? Intervenendo, per dire, i sindacati, ecco, qualunque tipo, ecco, di cui parlava anche, per dire, adesso non so, anche Carmelo Bene, di dire, ma sì, ma in miniera si muore, ma facciamo, provvediamo con un aumento di 100.000 lire al minatore, ma in miniera si continua a morire, è demenziale, no? Intervenire in questa maniera su una realtà che comunque, bene o male, ammazza, insomma, è omicida il lavoro, no? È così, è ripartire da questo, è una proposta, insomma, lo dicono chiaramente questi disoccupati felici, e così, è una proposta, è uno stimolo, è un ragionamento che continua, di cui abbiamo parlato e parleremo ancora. Sì. sé, senza speranza, escono dalle bocche come melena, prodotta per chemarci. E ricordo che stiamo ascoltando in sottofondo, e comunque ascoltiamo ancora, ovviamente quando ho smesso di parlare io, è l'Ordegno, band di Trieste, dal loro CD uscito l'anno scorso 2025, che si chiama Nel risveglio del Porfido. L'Ordegno. Non si parte. Il camion, carico di giovani, veniva avanti come un carro funebre. Allora urlai: lasciateli, e mi stesi supina davanti alle ruote del camion. Mi ucciderete, ma voi non passerete. Lo stradone in pochi minuti fu pieno di gente eccitata e pronta a tutto. Le autorità di polizia dettero ordine di lasciare andare i giovani e quelli di corsa sparirono tra la gente. Ma l'ira dei soldati fu tremenda. Spararono sulla folla inerme. Un giovane comunista mi cadde ai piedi mortalmente ferito. La folla si dileguò, restarono solo i più coraggiosi e disarmarono i pochi militari che c'erano. E un saluto anche da parte mia. E di chi è questa testimonianza? È la testimonianza di Maria Occhipinti, e appunto questa la testimonianza diretta di questa donna che il 4 gennaio del 1945 a Ragusa in Sicilia, e lei ha 24 anni, è incinta di 5 mesi e appunto di fronte a questo camion di giovani rastrellati in un quartiere popolare di Ragusa per essere mandati al fronte decide di fare questa azione diretta, insomma, che riesce perché questa azione scatena l'ira della folla e quindi questi ragazzi riescono a fuggire, a dileguarsi, poi vabbè ci sono tutte queste conseguenze, insomma, di repressione pessimissima, però la rivolta dilaga. Allora questo qua è stato uno dei, una delle azioni, insomma, di questo, chiamiamolo movimento, non si parte, un movimento antimilitarista contro la leva, che si sviluppò in Sicilia tra il 1944 e il 1945. Che cosa è stato il, diciamo, la motivo scatenante, insomma, di queste, di queste rivolte? Praticamente il governo Badoglio, dopo lo sbandamento dell'8 settembre 43, cerca di ricostruire l'esercito inviando cartoline precetto ai giovani siciliani tra i 20 e i 30 anni da mandare sul continente a combattere contro i tedeschi. Cioè, quindi una roba, sì, inaudita, insomma, una roba di, una, di un autoritarismo inaudito in una terra che era già in miseria, con la maggior parte di questi giovani richiamati, tra l'altro, erano reduci da, dalla guerra, quindi erano appena tornati. Difatti, in queste, nelle descrizioni di questi richiami, appunto, di questi precetti con la cartolina rosa, c'era anche l'indicazione di portarsi dietro gavetta, cucchiaio e materasso e coperta, perché erano tutti, la maggior parte erano appunto giovani che avevano già patito, avevano già dovuto andare in guerra. E appunto questa pensata, insomma, viene appunto diramata con una circolare del ministro della guerra, il conte milanese Alessandro Casati, che richiamava alle armi tutti i nati tra il 1914 e il 24. E quindi il governo voleva ricostruire l'esercito regio, e dopo che appunto il re era scappato, Badoglio pure, però vogliono ricostruire per il rotto della cuffia l'esercito regio, che è stato, era stato decimato dalla guerra, era anche stanco di combattere, insomma, e con l'apporto, cioè appunto rastrellando giovani contadini, operai e studenti universitari. Quindi questa questione qua scatena appunto rivolte significative. E poi magari vale la pena di descrivere alcune azioni, insomma, che, perché non riguardò solamente Ragusa, ma tantissime cittadine siciliane. E già nel 45 emerge questa così malafede, miopia, non so come definirla, comunque questa presa di posizione assurda da parte del Partito Comunista, della direzione del Partito Comunista Italiano, che letteralmente dice: si tratta di un vero e proprio rigurgito di fascismo che, in collusione con certi gruppi del movimento separatista, sfruttando le tragiche condizioni di esistenza del popolo lavoratore, vuole impedire la partecipazione alla guerra di liberazione dei siciliani per mantenerli nell'attuale stato di prostrazione e aggravare la disgregazione politica e sociale dell'isola. Quindi un giudizio sì, tranchant, insomma, su questi moti popolari, veramente inqualificabile, sì, gravissimo, che vabbè, non tiene conto della, appunto, delle lotte popolari, cioè dello spontaneismo delle lotte popolari. Tra l'altro, i numeri i renitenti alla leva avevano numeri elevatissimi, e tra l'altro in realtà tra i promotori di questi moti, sì, c'erano gli indipendentisti, c'era anche qualche fascio, diciamo, che si infilava, ma prevalentemente erano persone che esasperate, insomma, dalle condizioni e da questi ricatti del militarismo, e che appunto avevano deciso di disertare praticamente. Però questi renitenti alla leva gridavano: non si parti, ma da Reri non si torna, cioè non si parte, ma indietro non si torna, che era un motto antimonarchico e antifascista. Quindi comunque c'era questo elemento di rifiuto, diciamo, da parte dei manifestanti di un ritorno appunto al fascismo. E come dicevo, tra i rivoltosi di Ragusa erano molto attivi gli anarchici, che pubblicavano, e anche i comunisti dissidenti. Maria Acquipinti era tra i comunisti dissidenti, però poi, visto il trattamento che le era stato riservato dal partito, diciamo si è avvicinata agli anarchici, insomma, ed è rimasta in quella galassia lì. E appunto gli anarchici pubblicavano un giornale, La Scintilla darà la fiamma, che aveva un giornale antimilitarista e antimonarchico, e uno c'è un altro, diciamo, tra i promotori, tra le spinte maggiori di questa rivolta popolare fu Franco Leggio, che appunto è un anarchico che ha custodito la memoria di quegli eventi, insomma, fino a è morto abbastanza anziano e ha continuato, insomma, a mantenere la memoria di questi fatti. E un altro compagno che era, diciamo, anarco-comunista, che è stato in carcere anche con la Maria Occhipinti, era Erasmo, aspettate che non mi ricordo il cognome, Erasmo Sant'Angelo, che era dentro perché aveva ucciso un gendarme, e poi la sua pena era lunghissima, insomma, e morì suicida all'interno del carcere. E Maria lo ricorda perché lui praticamente riesce a salvare sua figlia quando sono in prigionia. Lei aveva questa bambina che nasce in prigionia, a Ustica, se non ricordo male, e insomma rischia di morire di freddo, e lui riesce, si procura delle pezzuole di lana, insomma le scalda, riesce praticamente a salvare la bambina mentre sono in prigionia. E allora dico ancora qualcosa su questa, beh, intanto è interessante, cioè l'ispirazione, diciamo, per parlare di questo movimento appunto antimilitarista e anche contro l'Italia, perché era anche anti-italiano, diciamo, nel senso che non, lo Stato italiano chiaramente in Sicilia non è che veniva visto come appunto una fonte di sfruttamento e di oppressione, non di certo come un qualcosa che rappresentava la popolazione. E l'ispirazione, dicevo, è venuta un po' dalla storia di Maria Occhipinti, tra l'altro lei l'ha scritta in un libro, un'autobiografia che si intitola Una donna di Ragusa, che è stato, c'è un'edizione Feltrinelli del 76, quella più, no, e poi anche un'altra della Sellerio. Comunque la prima edizione c'era anche una nota, un'introduzione di Carlo Levi. Ed è una bellissima autobiografia, perché lei proprio parla anche di, cioè lei ha una vicenda, diciamo, familiare così molto sofferta, nel senso che non viene riconosciuta, perché siccome è una già da bambina, è un soggetto, diciamo, inquieto e sì, che insomma non sta ferma, non accetta neanche la condizione di miseria estrema e di totale di fare la bestia da soma, insomma viene caricata, tranne che dal padre che la comprende più di tutti, ma anche in famiglia, insomma, non viene riconosciuta. Difatti verrà, dopo questa azione di stendersi incinta davanti al camion per impedire l'arruolamento dei giovani, verrà praticamente, come si dice, diseredata, cioè disconosciuta dalla famiglia, rimarrà da sola e niente, e quindi una vita, insomma, e poi dovrà andare via, girerà un casino per l'Italia, farà mille lavori per sopravvivere, insomma, e quindi lo spunto viene da questa sì singolare figura di donna, ma anche da questa questo riferimento a rifiutare appunto di prendere le armi, cioè questa cosa di rifiutare di combattere per lo Stato, no? E cioè in tutte queste rivolte, insomma, oltre a disarmare i carabinieri, disarmare i militari, bruciare gli uffici delle anagrafi, attaccare i municipi, cioè attaccare tutte le centrali del potere, ci sono stati anche gli assalti alle carceri e la liberazione di tantissimi indipendentisti, no? Perché erano la maggior parte degli indipendentisti, insomma, si trovavano dentro. E allora, appunto, poi ci sono diversi documenti su queste rivolte. Allora facciamo così, ascoltiamo un pezzetto di musica, così un attimo trovo, perché non trovo la riga. Ecco, allora, siamo nel 1944, dapprima i giovani trascurano l'arruolamento e in gran numero non si presentano ai distretti, ma quando i reali carabinieri e le forze di polizia sono incaricati di andare casa per casa per scovare i renitenti alla leva, scoppiano tumulti, scontri a fuoco, assalti ai municipi, occupazioni di paesi. Le manifestazioni violente si legano strettamente a quelle per gli ammassi. E nonostante il tentativo di esponenti fascisti e separatisti di pilotare per i propri interessi le proteste, i moti non si connotano con alcun colore politico. Diverse sono le componenti che vi partecipano e varie le motivazioni. Come dicevo, i reduci sfiniti da anni di guerra e poi appunto anche gli studenti e i separatisti. Gli studenti universitari e poi ci sono anche molti anche i dissidenti del PC che appunto non condividono la linea ufficiale del governo Bonomi condivisa dal partito che appunto condivideva questa roba dell'arruolamento obbligatorio e quindi anche loro partecipano a queste a questo disfattismo. Ecco, stavo dicendo prima, sentire, cioè leggere tutte queste narrazioni, questi racconti di queste rivolte, mi ha fatto venire in mente i racconti dei renitenti, dei disertori dell'Ucraina, appunto, e appunto mi ricollego a un documento delle compagne e dei compagni di Sabotiamo la guerra che hanno fatto appunto un corteo a Viterbo lo scorso 7 febbraio e anche un convegno lo scorso 8 febbraio e hanno anche pubblicato insomma dei vari contributi, tra cui anche un contributo recente appunto di questo movimento Assembly ucraino, appunto, che è per la diserzione, insomma, che sostiene anche i disertori e quindi mi ha fatto venire in mente anche questo discorso che viene portato avanti da Sabotiamo la guerra, insomma, in maniera esemplare, del disfattismo rivoluzionario, no? Che riguarda la guerra fra NATO e Russia in Ucraina, ma vale in generale, insomma, come attitudine, diciamo, di fronte allo stato di guerra che ci viene imposto sia sul fronte esterno che sul fronte interno. E appunto questo legare quindi la guerra esterna, la guerra interna, la repressione, che appunto è un elemento della guerra interna, e anche il carcere di guerra, appunto, che è il 41 bis, appunto, ricollegandosi anche alla necessità di riprendere questo discorso del 41 bis e anche la solidarietà attiva con Alfredo Cospito. Ma continuo a dirvi, a leggervi ancora qualcosa rispetto appunto a questo movimento Non si parte del 44-45. Allora, alla metà del mese di dicembre 44 le manifestazioni prendono una piega diversa dopo i tragici fatti di Palermo, dove una protesta contro il carovita si è trasformata in un bagno di sangue con 24 morti e 158 feriti. E la sommossa di Catania, con l'uccisione di un giovane che con altri studenti innalza cartelli su cui è scritto «Non partiremo». La rivolta si concentra ora nelle province della Sicilia sudorientale, in particolare a Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Scicli e in alcuni centri del Siracusano. La situazione si presenta gravissima sia sul versante politico che su quello economico. Non si ha fiducia nelle autorità, che hanno perduto ogni credito. La miseria, la disoccupazione, le condizioni di vita sono ormai insostenibili. E, ecco, un'altra cosa, si diceva prima degli ammassi, cioè la protesta anche contro gli ammassi, appunto c'era anche questo, praticamente le truppe di occupazione espropriavano, non mi viene un'altra parola, una parte del raccolto, no? E quindi questi contadini, che erano già con l'acqua alla gola, si trovavano espropriati di questa parte del raccolto, ma non volevano farlo, non riconoscevano nemmeno, poi gli occupanti non sapevano un cazzo, cioè non sapevano né la lingua, non sapevano niente. Sì, erano stati accolti gli americani come liberatori naturalmente all'inizio, però poi alla fine si trattava di vere e proprie truppe di occupazione, quindi impoverivano, diciamo, la popolazione di contadini, e quindi c'era una protesta anche contro questo discorso degli ammassi. E arriviamo appunto all'atto eroico di Maria Occhi Pinti, comunista dissidente, appunto, che si distende, siamo nel 4 gennaio del 1945 a Ragusa, impedisce quindi il rastrellamento di questi ragazzi che riescono a darsi alla macchia. Il giorno dopo il clima si surriscalda, quindi siamo al 5 gennaio 45, ulteriormente per l'uccisione del sacrestano della chiesa di San Giovanni da parte di un ufficiale dell'esercito, al quale l'uomo ha espresso le sue lamentele per i rastrellamenti. Il 6 gennaio scoppia la rivolta con l'assalto alla caserma dei carabinieri, ad edifici pubblici, al distretto militare, che cadono in possesso degli insorti in armi. Nel pomeriggio i rivoltosi prendono sotto il proprio controllo il posto di blocco di contrada Beddio, poco fuori Ragusa, che controlla la strada di accesso alla città, facendo prigionieri molti militari là distaccati. E appunto, tra i partecipanti alla rivolta si distinguono, oltre a Maria, Erasmo Sant'Angelo, comunista rivoluzionario, e Franco Leggio, anarchico. Ma il giorno 7 la situazione precipita per l'arrivo dell'esercito, che la sera stessa prende Ragusa e nei giorni successivi procede all'arresto di numerosi partecipanti o presunti tali della rivolta, con criteri e procedure palesemente discrezionali. In quei giorni la rivolta si estende a Scicli, Vittoria, Avola, Giarrattana, Santa Croce Camerina e soprattutto a Comiso, centro agricolo di 25.000 abitanti, dove si proclama la Repubblica. La reazione del governo Bonomi è durissima e dovrà servire da esempio per tutte le altre città siciliane. La repressione violenta dell'esercito, in cui si distinguono i militari della divisione Sabaudia e della brigata Sassari, pone fine alle sommosse che tra il dicembre 44 e il gennaio 45 hanno agitato parte della Sicilia. Il bilancio cruento degli scontri è di 18 morti tra carabinieri e soldati e 24 feriti, e per i partecipanti alla rivolta di 19 morti e 63 feriti. Bon, e poi appunto vengono arrestati un casino di rivoltosi e vengono condotti su camion ad Augusta e poi fatti salire sull'incrociatore Montecuccoli e trasferiti ad Ustica in due viaggi successivi del 24 e 28 gennaio. Vabbè, in questo contesto tutti gli arrestati che hanno partecipato alla rivolta vengono accusati di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e alto tradimento e sottoposti a processo dal Tribunale Militare di Guerra di Catania. Anche in questo caso il governo Bonomi, espressione dei partiti antifascisti e della Nuova Italia Democratica, per accelerare la soluzione di un grave problema di ordine pubblico, permette l'uso della giurisdizione militare e della misura di sicurezza del confino di polizia. Anche qua ci sono diversi riferimenti, no? Anche all'attualità. Questa cosa dello stato di emergenza e quindi del permettere, abbiamo parlato prima di 41 bis, del permettere la deroga, diciamo, di norme presunte democratiche o garantiste di fronte al tradimento dello Stato o comunque ad azioni contro i poteri dello Stato e quindi a questioni di ordine pubblico. Allora io poi magari metteremo sul blog di Zardings il riferimento a questo articolo, che è un articolo del Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, un articolo del 2014 molto dettagliato su queste vicende. Ecco, una cosa per finire prima di annunciare un'iniziativa di questo sabato. Sì, volevo finire con una cosa, diciamo, positiva, nel senso con l'aspetto di non resa, perché tutte queste persone nominate non si sono mai arrese, e anche di sono riuscite, cioè come la popolazione è riuscita a mettere in atto delle modalità appunto di solidali per sopravvivere anche nei momenti più duri. E appunto nel dicembre 45 viene tolta la carta non aria, attraverso la quale appunto veniva fornito cibo alla gente immiserita, e preferendo per motivi di convenienza aumentare da 14 a 30 lire il sussidio. Però in realtà questo non risolveva la questione della fame, e quindi che cosa succede? Per ovviare a questa situazione particolarmente restrittiva e cercare di risparmiare, molti costituiscono piccole mense comuni in cui dividono le spese e i compiti di lavoro: cucinare, pulire, tagliare la legna, raccogliere verdure ed erbe. Un aiuto proviene dalle famiglie dei luoghi di origine che con qualche difficoltà anche loro inviano saltuariamente pacchi di alimenti e cercano di alleviare le sofferenze dei familiari lontani. Scusate, non l'ho detto, parliamo del confino, no? Cioè dei prigionieri e delle prigioniere al confino. E appunto a Ustica. E ancora questa cosa: il primo maggio del 45, festa dei lavoratori, alcuni si recano senza permesso al cimitero per commemorare i confinati lì sepolti. Ma la manifestazione più eclatante avviene il 7 maggio successivo, quando si vuole festeggiare la fine della guerra. 20 confinati sfilano verso il cimitero innalzando una bandiera rossa ricavata dalla vecchia gonna di una confinata, con disegnati in giallo i simboli del comunismo, e nonostante il divieto delle autorità raggiungono e scavalcano il muro del cimitero per rendere omaggio ai reclusi politici morti ad Ustica durante il regime fascista. Violano così il divieto di manifestare in gruppo e non rispettano il limite confinati, dato che il cimitero è fuori dal centro abitato, e per questo la direzione punirà alcuni con giorni di fosso, risparmiando la giovane Maria Occhipinti solamente perché è da 2 mesi madre. E il fosso che cos'è? Il fosso è praticamente una specie di isolamento, non una specie, un vero e proprio isolamento punitivo, e in una praticamente è un insieme di 10 celle di metri 2x4 poco aereate, con tavolaccio per letto e senza servizi igienici. Sì, quindi questo qui insomma era, appunto, venivano messi sottoterra. Ricordiamo che al carcere di Bancali la sezione 41 bis si trova proprio sottoterra, sotto il livello del mare, insomma sottoterra. Quindi E anche questo sì, è un fosso, insomma, anche il 41 bis, il regime di 41 bis, oltre ad essere tortura, è un fosso. Bon, il tempo vola, quindi per stasera mi fermo qui con questo, con questo, insomma, approfondimento. E, mettiamo ancora un po' di musica e poi diciamo gli appuntamenti di sabato. Quindi diamo, così diffondiamo, annunciamo questa iniziativa che ci sarà a Udine sabato 14 marzo, è chiamata dall'assemblea No DL Sicurezza No Zone Rosse di Udine, e che corrisponde a una a un Instagram, diciamo così, No DDL Sicurezza No Zone Rosse UD, però, perché inizialmente era DDL, ma comunque l'assemblea No DL Sicurezza No Zone Rosse organizza sabato 14 marzo dalle 16 in Piazza Libertà, angolo via Cavour, un presidio contro la deriva repressiva e securitaria per la difesa della libertà di tutte e tutti, contro la criminalizzazione della solidarietà alla Palestina. Mentre il mondo corre verso la guerra, il governo Meloni emana leggi sempre più repressive con lo scopo di bloccare il movimento di solidarietà alla Palestina e ogni forma di protesta sociale. La questione sicurezza prosegue la no. Scusate, sto leggendo da un così, da un coso locale, da un media locale. E viene continuamente strumentalizzata oscurando i veri problemi reali, come le gravi carenze del sistema sanitario, la disoccupazione, la povertà che aumenta tra la popolazione, le paghe da fame, l'enorme divario di ricchezze che cresce sempre più, la catastrofe ambientale che avanza con eventi naturali sempre più estremi. Anche la violenza sulle donne viene strumentalizzata oscurando il fatto che la maggior parte dei soprusi avvengono all'interno di italianissimi nuclei familiari. Allora, riepiloghiamo: un presidio dalle ore 16 del sabato 14 marzo a Udine, in piazza Libertà, angolo via Cavour, è promossa dall'assemblea No DL Sicurezza No Zone Rosse di Udine. è contro lo stato di guerra e di polizia, a sostegno della resistenza del popolo palestinese e contro la deriva repressiva e securitaria. Bene, sfumo questa band, anzi la tengo in sottofondo, loro sono i newyorkesi Murphy's Law, dal loro album The Best of Times, datato 1991. Bene, siamo proprio al termine con questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, e trasmettiamo da Udine dalle 20 alle 21.30 e come sempre appunto in diretta anche oggi 12 marzo 2026. Ricordo i nostri contatti, se volete scriverci scrivete tramite posta elettronica a liberetutti@autistiche.org, oppure scrivete ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo anche che questa trasmissione, ma anche cioè quella odierna, ma anche quella delle volte scorse, potete riascoltarla sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, salutiamo tutti, l'appuntamento è al prossimo giovedì, e ovviamente salutiamo come sempre chi ci ascolta in replica domani venerdì dalle ore 11 su Radio Eustachio, e chi su Radiazione dalle ore 17, entrambe sono due web radio. Bene, vi lascio con un ultimo brano dei Murphy's Law, ciao a tutti e al prossimo giovedì. Just can't do it.